Ritroviamo Mario Corvini, direttore della New Talents Jazz Orchestra. Mario, ben ritrovato. Ritrovati a voi, ciao Federico, buongiorno a tutti, grazie, grazie. Allora ci porti delle buone nuove per l'orchestra a prezzi abbastanza contenuti, all'Auditorium, una serie di concerti, raccontaci un po'. Allora, sono una serie di concerti della New Talent Jazz Orchestra che da quest'anno è l'orchestra residente dell'Auditorium Patto della Musica, e faremo questi cinque concerti all'interno di questa rassegna, si chiama Incontri in Jazz. La prima domani con Roberto Gatto, un omaggio a Buddy Rich, poi il 22 marzo con Greta Panettieri, il 14 aprile con Claudio Corvini con un omaggio a Miles Davis, il 6 maggio un tributo a Massimo Urbani con Maurizio Urbani ospite, più alcuni giovani talenti solisti oltre quelli della New Talent Jazz Orchestra, e per ultimo il 28 maggio con Enrico Pierannunzi eseguiremo le sue musiche al coronamento e alla fine di questa rassegna di cinque concerti. Il biglietto è un biglietto unico di 15 euro, e quindi niente, siamo tutti emozionati perché è il primo concerto come orchestra residente al Parco della Musica, e quindi siamo tutti molto contenti. Bene, il filo conduttore di questi concerti, quest'idea che è venuta? Ma il filo conduttore si chiama Incontri in Jazz, è l'incontro che ha la New Talents con questi grandi ospiti solisti, appunto è un po' sancisce un po' l'unione tra un corpo orchestrale e il solista ospite, insomma. Bene. Senti, tutti i riferimenti ci lasci per saperne di più sul web, a parte... Come no, potete vedere la pagina Facebook, il nostro sito internet ntjorchestra.it, abbiamo anche la pagina Twitter, il profilo Twitter, insomma, canale YouTube, insomma, che presto appunto pubblicheremo anche questi concerti perché verranno tutti registrati. Ci sono tutti i comunicati stampa, insomma stiamo inondando il web a destra e a manca. Allora Mario, ci sentiamo prossimamente per altre nuove. Grazie Federico, come no, certo, e buona giornata, grazie di tutto, e mi auguro di vedervi tutti quanti al Parco della Musica già da domani sera con Roberto Gatto. Grazie mille, un abbraccio, a presto, ciao. Grazie, Mario. Buona giornata, grazie.